Che usa la legge, il fucile e la scuola per farsi più servi del nostro padrone. Si sa che il padrone le sue maestranze le vuole istruite e ben educate, con la sua cultura, la sua disciplina lui plasma i servi di ogni officina. Batangas è la città dove sono nato io, una città grandissima, famosa per la produzione di un coltello. Mi chiamo Ma, vivo in Italia da 7 mesi e vivevo nelle Filippine fino al 2008. Io mi chiamo Kappa e vivevo in Bolivia fino ai miei 10 anni e ora vivo a Firenze da 2 anni. Quando arrivò il giorno di andare via per andare in Italia, ho portato un sacco di roba dentro una valigia grandissima. Il mio primo giorno di scuola ero triste perché non capivo l'italiano e non conoscevo nessuno. Volevo andare in bagno e non lo sapevo dire. Mi sentivo solo. Oh, Grazie a tutti. Grazie. Prima di salutarvi, una cosa di cui mi assumo la totale e personale responsabilità, anche a costo di eventuali linciaggi. Questa sera abbiamo cantato e suonato, ma fuori da qua c'è molto da fare. Ecco, penso che forse dovremmo smetterla, un po' almeno, di cantarcela, di essere sempre uguali a noi stessi e anche di iniziare a fare un po', almeno un po', di quello che là fuori c'è da fare.